Parlare di Messico e parlare di lotte originali per le nostre latitudini è sicuramente parlare di donne lavoratrici sessuali organizzate per esempio in Apisacco, Tlaxcala, Consejo Nacional Urbano y Campesino, delle donne che avevano preso una casa in un terreno dove lì lavoravano, ovviamente senza sfruttamento del corpo altrui, senza sfruttamento di minori, dove liberamente hanno deciso quindi di lavorare nel lavoro sessuale, appunto. Il governo ovviamente vede come un pessimo esempio nel campo della lotta per i diritti delle donne e dell'autodeterminazione anche del proprio lavoro e quindi ha chiuso il 25 novembre scorso il luogo di lavoro di tali lavoratrici. Se il giorno il 17 dicembre si è organizzata una manifestazione a livello nazionale in Messico con vari punti, con proteste in varie parti dello Stato messicano. Questo gruppo fa parte della rete messicana del lavoro sessuale, nella quale fa parte anche la Brigata Callejera, ovvero la Brigata di Strada, collettivo di compagni e compagni che lavorano a fianco delle lavoratrici sessuali. Allora a questo punto vogliamo ricordare anche che il 6 gennaio, nel quarto anniversario della morte della comandante Ramona, le compagne e i compagni della Brigata Callejera, con dei compagni e delle compagne internazionali di San Cristóbal, si organizzarono una giornata di salute dal basso per ricordare appunto una delle lotte, proprio la lotta per la salute delle donne e per la salute di tutti e tutte, che erano uno dei cavalli di battaglia della comandante Ramona. In San Cristóbal, nel Sidesi, nella periferia, sono state ricevute con visite ginecologiche, dentali, colposcopia, pap test, massaggi alle organizzazioni aderenti all'altra campagna e alla gente del quartiere di San Cristóbal. Allo stesso modo si è organizzata la stessa giornata di salute per 2 giorni nella comunità di Mizziton, che è una delle comunità appunto più colpite dai paramilitari per la costruzione dell'autostrada San Cristóbal-Palenque. Le giornate sono andate bene ed è stato un esempio di come l'altra campagna, ovvero distinte organizzazioni che condividono l'idea di cambiare il Messico dal basso, si possono vincolare e quindi costruire anche spazi di diritti come quello della salute, che spesso siamo abituati a pensare che solo debbano venire dal governo.